Il pozzo funzionava proprio come sorgente di acqua. Credo che sia, almeno i miei dicevano che era in contatto col lago di Lopio, perché la zona che c'è fra questa parte del paese e il Passo di San Giovanni era denominata Inaquais, no? Inaquais, ciò vuol dire che era bagnata, anche recentemente le campagne le erano bagnate qua, Sì. ho delle belle 30, 40 fotografie, centimetri. era 20 centimetri di acqua. E quindi questo pozzo è stato usato regolarmente tutto il tempo, per tutto l'anno era usato e serviva un po' come pozzo per l'acqua, per l'acqua da bere o da usare per fare. Un po' per, come ghiacciaia, cioè a un certo punto calavano un secchio o un cesto in fondo al pozzo a filo dell'acqua e restava lì tutta la notte, la mattina lo tiravano su, trovavano fresca, no? In più, durante la guerra, questo me lo ricordo molto bene, abbiamo aperto il pozzo, abbiamo lasciato usare il pozzo a tutti i nostri concittadini qua della piazza, perché c'erano problemi con l'acqua e loro abbiamo dato la nostra, insomma, era aperto a tutti per quel periodo lì, nel 44, 43, 44. E questo pozzo è parte integrante dei miei ricordi di bambino, perché cosa succedeva? Il pozzo ha una carrucola, avvolta a un cilindro di legno, no? E calavano il secchio con questo strumento, però il secchio spesso e volentieri cadeva nel pozzo e allora qualcuno doveva andare a recuperarlo, doveva andare in giù. Nel pozzo ci sono dei buchi nel muro per mettere le punte dei piedi, no? Arrivavano fino al pelo dell'acqua e tiravano su. Quando succedeva, per me era uno spettacolo.